Capitolo 33. Ferrara, 2 settembre 1550. Letterati, pittori, poeti, stampatori e anche segretari di palazzo, lettori delle università, chierici. Esiste un mondo sommerso del dissidio contro la Chiesa, un mondo trasversale che tocca punti chiave, figure importanti nelle corti, diffusori di idee e di consigli ai principi. Tutti scontenti dell'aumento di potere dell'Inquisizione e dei cardinali intransigenti. Non v'è città che non abbia i suoi circoli dove si coagula un profondo malcontento e la consapevolezza che un laccio soffocante si va stringendo. I valdesiani di Napoli, i cripto-calvinisti fiorentini, gli amici di Pola Padova, i filo-riformatori veneziani e poi a Milano, Ferrara. Principi come Cosimo de' Medici o Ercole II d'Este possono trovare in questi fermenti e in queste figure la sponda per tenere l'Inquisizione lontana dai loro confini ed essere quindi costretti a inaugurare una stagione di liberalità e tolleranza. Il vecchio potere dei nobili casati può tornare utile per impedire l'avanzata del nuovo potere inquisitoriale. Queste grasse famiglie sentono l'ingerenza di Roma come un occhio puntato sui loro domini, una presenza incombente che toglie loro spazio. Se vedessero montare il dissenso delle popolazioni verso i privilegi e le gerarchie ecclesiastiche, potrebbero risolversi a contrastare i tribunali del Sant'Uffizio. Il compito di noi battisti sarà quello di vincere la cronica irrisolutezza di queste cerchie di letterati, pungolarli, spingerli a venire allo scoperto prima che sia troppo tardi. Ma esiste anche uno scontento popolare, diffuso nelle campagne e ovunque. Un'istintiva e quasi connaturata avversione verso lo strapotere del clero, dettato dalle condizioni miserabili in cui versano le popolazioni. Riuscire a essere la cesura tra lo spirito evangelico plebeo e il dissenso colto è il difficile compito che dovremo assolvere. Questo non deve avvenire necessariamente alla luce del sole, bensì con la dovuta precauzione della dissimulazione delle intenzioni e della fede. Il nostro concilio deve servire a dare unità di intenti per l'immediato futuro a tutti i confratelli sparsi per la penisola. Si terrà Venezia in ottobre e sarà clandestino. Io non ci sarò. Come? Sei l'unico filo che può legare tutte le comunità. Per tutti sei il punto di riferimento. Per me parlerà il documento che ti affiderò. Se è vero che sono l'unica autorità spirituale, è meglio che rimanga nell'ombra. Che di Tiziano non si conosca il volto, ma la potenza della parola. Manelfi abbassa lo sguardo, deferente, e stende il foglio sullo scrittoio. Una grafia minuta di annotazioni. Sarà il portavoce di Tiziano al Concilio dei Battisti Italiani.